Bibbia Martini, primo libro dei Re 8 Dedicazione del Tempio, in cui si introduce l'arca, empiendolo tutta la nebbia. Salomone dopo una lunga orazione benedice il popolo. Numero dei buoi, e delle pecore immolate in questa solennità. Allora si adunarono tutti i signori d'Israele co principi delle tribù, e i capi delle famiglie dei figliuoli di Israele presso al re Salomone a Gerusalemme, per fare il trasporto dell'arca del testamento del Signore, dalla città di Davide, cioè da Sion. E tutto Israele si congregò davanti al re Salomone nel di solenne del mese Etanim, che è il settimo mese. E andarono tutti gli anziani d'Israele e i sacerdoti presero l'arca, e portarono l'arca del Signore, e il tabernacolo dell'alleanza, e tutti i vasi del santuario, che erano nel tabernacolo, e li portavano i sacerdoti, e i leviti. E il re Salomone, e tutta la moltitudine d'Israele, che si era adunata presso di lui, andavano con lui innanzi all'arca, e immolavan pecore, e bovi in coppia inestiabile, e senza numero. E i sacerdoti portaron l'arca del testamento del Signore al luogo destinatole, nell'oracolo del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Perocché i cherubini stendevano le loro ali sopra il sito dell'arca, e adombravano superiormente l'arca, e le sue stanghe. E le stanghe, le quali spuntavano in fuori non comparivan più al di fuori, ed elvi son rimase fino al di d'oggi. E nell'arca non vu era altra cosa, se non le due tavole di pietra postevi da Mosè a Oreb, quando il Signore fece l'alleanza co figliuoli d'Israele, dopo che furono usciti dalla terra d'Egitto. Ora gli avvenne, che quando i sacerdoti furono usciti dal santuario, la casa del Signore fu ingombrata da una nebbia. E i sacerdoti non potevano resistere a fare gli uffici loro a cagion della nebbia, perocché la gloria del Signore avea ripiena la casa del Signore. Allora disse Salomone, il Signore ha detto, che avrebbe abitato nella nebbia. Io con tutto l'affetto ho fabbricato una casa per tua abitazione, per tuo trono saldissimo in sempiterno. E il re si rivolse per augurare ogni bene all'adunanza d'Israele, perocché tutta l'adunanza d'Israele stava presente. Indi disse Salomone, benedetto il Signore Dio d'Israele, il quale di sua propria bocca predisse a Davide mio padre quello, che egli con la sua possanza adempì. Ora egli disse, dal giorno, in cui io trassi il mio popolo d'Israele dalla terra d'Egitto, non mi elessi io una città tra tutte le tribù d'Israele, affinché vi si edificasse una casa, la quale portasse il mio nome, ma elessi Davide, affinché fosse capo del mio popolo d'Israele. Or Davide mio padre fabbricar voleva una casa al nome del Signore Dio d'Israele, ma il Signore disse a Davide mio padre, quando tu pensasti in cuor tuo di edificare una casa al mio nome, ben facesti tu, formando nella tua mente tal disegno, tu però non edificherai a me questa casa, ma sì il tuo figliuolo generato da te, egli edificherà una casa al nome mio. Il Signore ha condotta ad effetto la parola, che avea pronunziata, e io son venuto in luogo di Davide mio padre, e mi sono assiso sul trono d'Israele, come avea detto il Signore, e ho edificata una casa al nome del Signore Dio d'Israele. E in essa ho scelto il suo luogo all'arca, in cui sta il testamento del Signore, fermato da lui co padri nostri, allorché uscirono dalla terra d'Egitto. Indi Salomone si stette in piedi dinanzi all'altare del Signore al cospetto di tutta l'adunanza d'Israele, e stese le mani sue verso del cielo. E disse, Signore Dio d'Israele, non vuo a Dio simile a te né su in cielo, né quaggiù in terra, tu sei, che il patta mantieni, e la tua misericordia a tuoi servi, i quali le tue vie han battute con tutto il cuor loro. Tu hai mantenute le parole dette da te al padre mio Davide tuo servo, di tua bocca tu le dicesti, e con le mani tue le hai adempiute, come questo giorno il dimostra. Adesso adunque, o Signore Dio d'Israele, mantieni al tuo servo Davide padre mio la parola datagli da te, quando dicesti, non mancherà di tua stirpe giammai chi segga dinanzi a me sul trono d'Israele, purché però veglino i tuoi figliuoli sopra i loro andamenti, in tal guisa, che camminino dinanzi a me, come tu hai camminato nel mio cospetto. Ora dunque, Signore Dio d'Israele, stiano salde le tue parole dette da te al tuo servo Davide mio padre. E egli è dunque credibile, che Dio abiti veracemente sopra la terra. Peroché se il cielo, e gli altissimi cieli non possono capirti, quanto meno questa casa edificata da me. Ma volgiti all'orazione del tuo servo, e alle sue suppliche, o Signore Dio mio, ascolta l'inno, e la preghiera, che fa oggi a te il tuo servo, siano aperti di notte, e di giorno i tuoi occhi sopra di questa casa, sopra la casa, di cui dicesti, ivi sarà il nome mio, talmente che la preghiera, che a te fa in questo luogo il tuo servo, sia esaudita da te, e tu ascolti le suppliche del tuo servo, e del tuo popolo d'Israele, di qualunque cosa ti preghino in questo luogo, or esaudirai tu dai luogo di tua abitazione nel cielo, ed esauditili, farai loro misericordia. Se un uomo avrà peccato contro il suo prossimo, il quale esiga da lui, che si leghi con giuramento, ed egli verrà per fare suo giuramento nella tua casa dinanzi al tuo altare. Tu ascolterai dal cielo, e renderai, e farai giustizia, tuoi servi, condannando l'empio, e facendo sul capo di lui cadere il suo fallo, e giustificando il giusto, e ricompensando la sua giustizia. Se il tuo popolo d'Israele sarà stato messo in fuga da suoi nemici, e facendo penitenza, e dando gloria al nome tuo, verranno a porgere a te orazioni, e suppliche in questa casa. Esaudiscili tu dal cielo, perdona il peccato al popolo tuo d'Israele, e riconducilo a quella terra, che fu da te data ai padri loro. Se il cielo sarà chiuso, e pioggia non cadrà a motivo dei loro peccati, e orando in questo luogo faran penitenza in onor del tuo nome, e nella loro afflizione si convertiranno delle loro iniquità, esaudiscili tu dal cielo, e perdona i peccati dei servi tuoi, e del popolo tuo d'Israele, e mostra ad essi la buona strada, per cui debbano camminare, e da pioggia alla terra, di cui desti il dominio al tuo popolo. Se la fame, o la pestilenza invaderà il paese, o l'aere corrotto, o la ruggine, o le locuste, o il fuoco salvatico, se i sarà devastato dall'inimico, che assedii le sue città, in qualunque flagello, in qualunque calamità, ogni volta che qualsivoglia uomo del tuo popolo d'Israele ricorrerà a te con voti, e preghiere, ogni volta che alcuno riconoscendo la piaga del proprio cuore, alzerà a te le sue mani in questa casa, tu esaudirai dal cielo, da quel luogo di tua abitazione, e ti renderai propizio, e darai a ciascheduno secondo le sue operazioni, secondo quel che vedrai nel suo cuore, affinché ti temano, finché vivono sopra la terra data da te ai padri loro. Ma lo straniero ancora, che non appartiene al popolo tuo d'Israele, quando da rimoto paese verrà per amor del tuo nome, quando adunque egli verrà a far orazione in questo luogo, tu lo esaudirai dal cielo, dal firmamento, su cui tu risiedi, e farai tutto quello che chiederà a te lo straniero, affinché i popoli tutti del mondo imparino a temere il tuo nome, come il popolo tuo d'Israele, e riconoscano, come da te ha nome questa casa edificata da me. Se il tuo popolo anderà a far guerra ai suoi nemici, dovunque sarà mandato da te, e ti indirizzerà le sue preghiere rivolto alla città eletta da te, e alla casa edificata da me al tuo nome, tu esaudirai dal cielo le loro orazioni, e le loro suppliche, e renderai loro giustizia. Che se egli non peccheranno contro di te, onde tu mosso a sdegno li abbi abbandonati in potere dei torpi nemici, ed ei siano menati schiavi in terra nemica lungi, o dappresso, se nel luogo di loro schiavitù faranno di cuore penitenza, e si convertiranno, e nel loro servaggio ti supplicheranno, e diranno, abbiamo peccato, abbiamo operato iniquamente, e in che cose abbiamo fatte? E ritorneranno a te con tutto il cuor loro, e con tutta l'anima, nel paese nemico, dove sono stati condotti in schiavitù, e a te faranno preghiera rivolti verso del loro paese dato da te a padri loro, e verso la città eletta da te, e verso il tempio edificato da me al tuo nome, tu esaudirai in cielo, nel firmamento, su di cui posa il tuo trono, le loro orazioni, e le loro suppliche, e prenderai le loro difese, e propizio ti renderai al popolo tuo, che peccò contro di te, e a tutte le iniquità, con le quali avranno prevaricato contro di te, e ispirerai misericordia a coloro, che fi tengono in schiavitù, affinché li trattino benignamente. Perocché egli non sono tuo popolo, e tua eredità, cui tu traesti dalla terra d'Egitto, dalla fornace di ferro. Siano aperti i tuoi occhi alle preghiere dei tuo servo, e del popolo tuo d'Israele, ed esaudiscigli in qualunque occasione ti invocheranno, perocché tu li separasti da tutti i popoli della terra, per esser tua eredità, come dicesti per bocca di Mosè tuo servo, allorché i padri nostri menasti fuori dell'Egitto, Signore Dio. Or dopo che Salomone ebbe finito di fare tutta questa orazione, e preghiera al Signore, si alzò egli dal cospetto dell'altare del Signore, perocché avea posate sopra la terra ambedue le ginocchia, e teneva stese le mani verso del cielo. Stando adunque in piedi benedisse tutta l'adunanza d'Israele ad alta voce, dicendo, «Benedetto il Signore, che ha data la pace al popolo suo d'Israele, secondo tutte le promesse, che avea fatte, neppure una parola non è caduta per terra rispetto a tutti quei beni, che egli promis per bocca di Mosè suo servo. Sia il Signore Dio nostro con noi, come fu co padri nostri, ed egli non ci abbandoni, e non ci rigetti. Ma i cuori nostri inclini verso di lui, affinché nelle sue vie camminiamo senza riserva, e osserviamo i suoi precetti, e le sue cerimonie, e gli insegnamenti dati ai padri nostri. E le parole di questa orazione fatta da me dinanzi al Signore, siano presenti al Signore Dio nostro di giorno, e di notte, affinché egli sia favorevole in ogni tempo al suo servo, e al popolo suo d'Israele, e riconoscano tutti i popoli della terra, come il Signore egli è Dio, e altro non avvenne fuori di lui. E parimente il cuor nostro sia retto in verso il Signore Dio nostro, talmente che adempiamo i suoi comandamenti, e osserviamo i suoi precetti, come pur oggi facciamo. Il re adunque, e con lui tutto Israele immolavano vittime dinanzi al Signore. E Salomone scannò, e immolò al Signore in ostie pacifiche 22.000 bovi, e 120.000 pecore, e il re, e i figliuoli d'Israele dedicarono il tempio del Signore. In quel medesimo giorno il re consacrò la parte di mezzo dell'atrio, che era dinanzi alla casa del Signore, perocché ivi offerse olocausti, e vittime, e il grasso delle ostie pacifice, perché l'altare di bronzo, che era dinanzi al Signore, non era sufficiente a capire gli olocausti, e i sacrifici, e il grasso di ostie pacifiche. Fece dunque allora Salomone una celebre solennità, e con lui tutto Israele raunato in gran folla dalle strette di Emat fino al torrente d'Egitto, dinanzi al Signore Dio nostro, per 7 giorni, e per 7 altri giorni, viene a dire, per 14 giorni. E l'ottavo giorno licenziò i popoli, i quali benedicendo il re, se ne tornarono alle loro tende col cuore lieto, e pien di gaudio per tutti i benefici fatti dal Signore a Davide suo servo, e ad Israele suo popolo. Note, 8,2, nel di solenne del mese Etanim. Molti pel di solenne intendono la festa dei tabernacoli celebrata nel 7° mese dell'anno sacro, il qual mese era il 1° dell'anno civile. Altri intendono la stessa solennità della dedicazione, la quale certamente fu avanti la festa dei tabernacoli. 8,3. I sacerdoti presero l'arca. La cavarono dal tabernacolo eretto da Davide nella città di Sion. Ne paralipomeni. Lib 2. V 4. Si dice che l'arca fu portata da Leviti, ma i sacerdoti erano pur Leviti. Può ancora intendersi che i sacerdoti levaro l'arca dal tabernacolo, per lo che fare dove allevarsi i veli, che la coprivano, e i Leviti la portarono involta nei suoi veli. Vedi 2. Regione V 8,4 e il tabernacolo dell'alleanza. Questo tabernacolo era quello stesso fatto da Mosè, che era stato lungamente in Gabaon, donde Salomone dovette farlo trasportare in questo tempo per collocarlo nel tempio. Alcuni vogliono che anche il tabernacolo fatto da Davide fosse allora portato nel tempio. 8,5. E immolavano pecore e bovi, e ci offerivano queste vittime a sacerdoti, i quali le immolavano. Credesi che Salomone, ad esempio di Davide, facesse erigere altari di sei in sei passi per espandere a piede i medesimi il sangue delle vittime. 2. Regione V. 13. 8,6. Sotto le ali dei cherubini. Per questi cherubini intendi non quelli del propiziatorio, ma i grandi cherubini posti nel mezzo del santuario, i quali con le loro ali toccavano di qua e di là le mura dello stesso santuario. Superiore capitolo 6, 23. 27. 8,8. E le stanghe, le quali spuntavano in fuori e ci il santo dei santi, quale lo avea fatto Mosè, essendo assai ristretto, le stanghe dell'arca con la loro lunghezza uscivano alquanto fuora spingendo il velo che era davanti allo stesso santuario, ma ciò non fu più nel santuario di Salomone, che avea il doppio di lunghezza. 8,9. Nell'arca non vu era altra cosa, se non ECS Paolo Eb. 9,4. Mette nell'arca anche l'urna d'oro piena di manna, e la verga d'Aronne, e così dovette essere fino a tanto che il tabernacolo e l'arca non ebbero luogo stabile, eretto di poi il tempio non furon lasciate nell'arca se non le due tavole della legge, per custodia delle quali da principio fu fatta l'arca da Mosè, e l'urna e la verga furon messe nel tesoro del tempio. 8,10-11. La casa del Signore fu ingombrata e introdotta l'arca nel santuario da sacerdoti, e usciti questi dallo stesso santuario, Dio mandò questa nebbia, la quale rappresentava, e velava la sua maestà. Vedi Exod. 16,10. 24.15.16. Numero 9. 15. PS 104. 39. Ella ingombrò il santo dei santi, e il santo, e l'atrio dei sacerdoti, e forse anche tutto l'atrio della casa del Signore, onde ebbe il timore della maestà di Dio, e perché questa nebbia offendeva i loro occhi, non potevano i sacerdoti fare gli uffizi loro. 8,10. Il Signore ha detto, e ci vedi Levit. XXV 2. 8,14. E il re si rivolse, e ci egli era nell'atrio del popolo, dove era una specie di tribuna fatta pel re. 2. Paral. 6,13. 8,29. Ivi sarai il nome mio. Ivi sarò adorato, onde la casa porterà il nome mio, il nome del vero Dio. 8,31. Il quale esige da lui che si leghi con giuramento. Vedi 2. Paral. 6,22. Il qual luogo parallelo dimostra che il senso di questo versetto è quello che si è espresso nella traduzione. In alcuni casi la legge ordinava che si stesse al giuramento di colui che era stato accusato, per esempio un depositario che negava il deposito. Vedi Exod. 2. Salomone prega il Signore, che non lasci impunita l'impietà di colui che avrà ardimento di giurare il falso dinanzi a tutti nel suo tempio. S. Agostino. Lib XXI. Capitolo 8. De Civ racconta che si conducevano all'oratorio di S. Stefano quel che erano sospetti di qualche delitto, perché ivi si purgassero col giuramento, e che quando giuravano il falso erano puniti da Dio, come vedesi ne fatti, che ivi racconta lo stesso santo. Vedi ancora Greg. Turon. Lib 8. 16.8.38. Riconoscendo la piaga del proprio cuore. Riconoscendo la ragione dei suoi mali nelle colpe, onde ereo contro di te. 8.39. Darai a ciascheduna seconda le sue operazioni, secondo quel che vedrai e ci Dio guarda più al cuore e a fatti, che alla lingua e alle parole. 8.41. Lo straniera ancora, e ci si videro in effetto e durante il primo tempio, e dopo la ristorazione fattane da Zorobabele, gli stranieri concorrere ad adorare il vero Dio nel tempio di Gerusalemme. Le liberalità usate in onore dello stesso tempio da Ciro, da Artaserse, da Alessandro M. da Tolomeo Filadelfo, da Seleuco e da molti romani, sono riferite da Giuseppe Ebreo. 8.44. Rivolto alla città. E alla cosa e. Tale era l'uso degli ebrei. In qualunque luogo si ritrovassero, si volgevano, facendo orazione, verso Gerusalemme e verso il Tempio. Vedi Dan. 6.10. 8.54. Avea posate sopra la terra ambedue le ginocchia. Gli ebrei ordinariamente pregavano stando ritti. Qui Solomone per estremo affetto e umiltà, era inginocchiato davanti al Tempio, esempio, che vedrem di poi imitato da altri. 8.64. Consacrò la parte di mezzo dell'atrio. Fece consacrare dai sacerdoti la parte di mezzo dell'atrio dei sacerdoti, facendovi ergere un altro altare, perché l'unico altare degli olocausti non era sufficiente per tante vittime. 8.65. Raunato in gran folla e da un'estremità all'altra del regno. Vedi Ios. 23.3, numero 13. 22, per 14 giorni. 7 della dedicazione, e 7 della festa dei tabernacoli. 66. E l'ottavo giorno licenziò e ci finito l'ottavo giorno del secondo settenario, diede licenza a tutto il popolo di ritirarsi. E il popolo si ritirò a 23 del mese, 2. Paral. 7.10.